Allora, buonasera, vi do il benvenuto a nome della Biblioteca Claudia Augusta del Centro Trevi per quest'ultima presentazione dell'anno per il libro Che non finisce mai, Una vita da genitori adottivi. E lascio subito la parola alle autrici Sonia Negri, Sara Petoletti e alle conduttrici, diciamo, da parte, che fanno parte dell'Associazione Amici dei Bambini, e Michela De Santi e Giulia Marcantonio. Allora, noi abbiamo deciso di partire con una poesia. Cercasi casa con sole fin dal mattino. Casa con dentro un bambino, con madre e padre. Secondo te a chi assomiglia? Cercasi casa con dentro famiglia. Di Viviane Lamarck. Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere venuti malgrado il caldo di oggi. E oggi vogliamo presentare questo libro, e grazie alla Biblioteca Claudia Augusta che ci ospita sempre come ogni anno la presentazione di un libro. Abbiamo qui il nostro direttore che semplice bibliotecario che ci ha aiutato in questo, per così allestire questa nostra presentazione. Abbiamo provato quest'anno ad aggiungere delle cose, non solo quindi a presentare un libro, ma anche abbiamo cercato di farci aiutare da un artista, da Berta Ruia Aleios, che è la nostra artista, che cercherà di raccogliere quello che sono i sentimenti che oggi verranno così un po' snocciolate all'interno di questo bel libro. E abbiamo la presenza di Sonia Negri, che è una attiva socia dell'Associazione Famiglie Adottive e Petali dal Mondo, e aiuta anche quello che è una collaboratrice del Centro per le Terapie per l'Adolescenza, e Sara Petoletti, che è una psicologa e psicoterapeuta, anche lei collabora col Centro Medico Maino e sempre il Centro di Terapia per l'Adolescenza. Io lascerei adesso a loro, le protagoniste, e appunto anche a Giulia Marcato, la nostra sociologa dell'Associazione Amici dei Bambini, che oggi è nella veste di attrice, cercherà appunto di raccontare parte del libro. La nostra associazione, l'Associazione Amici dei Bambini, come sapete, ogni anno cerca di presentare un libro sull'adozione, proprio perché siamo convinti che è importante fare sensibilizzazione sull'adozione, parlare di adozione e raccontare l'adozione. Prego. Niente succede due volte. Chissà, forse lo scriverei così, che la vita è una sola, se fossi un poeta. E direi anche che, probabilmente, è per questo motivo che nasciamo senza sapere e moriamo senza esserci ancora abituati alla vita. Ammetto che in versione poetica avrebbe anche il suo fascino, non c'è dubbio, ma questo non cambia una prosaica verità. E cioè che le cose non tornano. Eppure ci sono lembi di tempo che a volte si ripiegano su se stessi, avvolgendo per anni vite passate, che finiscono per restare nascoste come monetine in un burrone o come anelli nella sabbia, che sembrano scomparire, ma sono soltanto nascosti alla vista. Ed è proprio lì, dentro quelle pieghe, che un tempo può incontrarne un altro. È lì che il passato si ripresenta, nel senso che si fa presente. Il primo lembo di tempo arrotolato mi si è rappresentato quando sono diventata mamma di seconda mano di Emanuele, il suo aquilone bianco, la camicia da notte che gli ha fatto da pancia di riserva. Un lembo che ho chiamato la compravendita della mia vita o del velluto, perché per mia esperienza la vita è un tessuto cangiante che, se la guardi da una certa prospettiva, non te la sai spiegare, ti restituisce solo stranezze e ambiguità. Ma se però cambi prospettiva e la guardi di nuovo, ogni cosa ti sembra perfettamente normale, al suo posto, dove deve essere. Ecco com'è andata. Avevo poco più di un anno e mi volevano comprare. Ricordo che quando mia madre me lo ha raccontato, tenevo in braccio Cecilia, e Cecilia aveva proprio un anno. Incredibile. Cioè, una coppia di vicini di casa, con tanti soldi ma senza figli, aveva proposto ai miei genitori, che di figli ne avevano due ma di soldi meno di niente, di vendere la loro primogenita. Beh, per essere precisi. Ora, visto da qui e per usare un eufemismo, quello scambolo di vita sembra assurdo. Per dirla tutta, è una vera porcheria. Come altro potrebbe essere definito l'acquisto di una bambina se non un'immonda schifezza? Eppure, con un piccolo spostamento di prospettiva, quell'immondizia assume un altro aspetto, quello di una specie di amore. Ci sono due coppie, una due figli, l'altra zero. Quella senza dice: facciamolo per uno? Semplice, no? Come la matematica quando la capisci, ma complicato anche, come la matematica quando non la capisci. Mia madre disse di no, ma non giudicò. Credo che avessi visto dentro le pieghe di quel tessuto cangiante, di quel velluto, che è la vita che ci capita e non quella che vorremmo ci capitasse. Quelli che per il mondo erano i cattivi non lo erano per lei, che amava i suoi figli e non riusciva a vedere i cattivi in chi li desiderava. Ho sempre creduto dovesse essere così l'amore: un tessuto vellutato e cangiante, una prospettiva, una luce da rinfrangere. E quando è arrivato Emanuele, abbandonato e voluto, voluto e abbandonato, ho sentito che avrei dovuto fare pratica tanta e con umiltà di quella forma di amore. Un amore che abbraccia ma non possiede, che sceglie ma non giudica, che è sconfinato eppure limitato. Come avete visto, mentre lei parlava, la cosa bella che in questo momento sta succedendo è quello che si chiama live painting. È un modo per appunto rappresentare le emozioni. E la prima domanda che ci viene da fare alle due autrici è sicuramente da dove nasce questa idea del libro e questa bella copertina che noi abbiamo visto, anche di spiegarcela un po', prego. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto Ivy per l'invito, il Centro Trevi e la biblioteca che ci ospitano. Sì, inizio io, parto io Sonia a rispondere alla domanda di Michela rispetto alla perché la scelta di scrivere questo libro. In realtà un po' un nuovo libro per me e per Sonia, nel senso che io e Sonia in realtà, diciamo così, utilizzando la metafora del viaggio, che è una metafora che troverete nel libro, questo viaggio insieme l'abbiamo già iniziato un pochino di tempo fa. Nel libro c'è un piccolo brano tratto da Viaggio in Portogallo di José Saramago, un libro che amiamo molto, e Saramago dice che il viaggio non finisce mai, bisogna ricominciare il viaggio sempre, ed è quello che abbiamo un po' fatto a nostro modo io e Sonia, nel senso che scrivere un libro è un po' come un viaggio che ha dei momenti, diciamo, ha delle salite, delle discese, delle accelerate, delle frenate, dei momenti in cui c'è e non si sente la fatica perché non si riesce a superare un ostacolo, ma poi c'è l'entusiasmo per essere riusciti appunto a superarlo e a trovare la soluzione, e in realtà quando si conclude un libro, in realtà forse non lo si conclude, ma si apre, c'è un nuovo inizio, no? Un viaggio, perché il libro è un viaggio? Beh, perché in realtà io sto scrivendo questo libro, avevo un po' fatto un viaggio dentro noi stesse, nel senso che questo libro ci ha dato modo di ripensare al nostro essere mamme e anche al nostro essere figlie, creando quindi delle connessioni, dei collegamenti, dei link, delle risonanze. Io, Sonia, come vi dicevo, un viaggio l'abbiamo iniziato un pochino di tempo fa con un altro libro che si chiama Adottato anche tu, allora siamo in due o forse di più, che è un libro rivolto ai ragazzi e agli adolescenti, che è una storia di adozione alle spalle e quindi che, come dire, presenta l'adozione con gli occhi di due ragazzi appunto adottati. L'idea questa volta è stata quella di proseguire un viaggio che ci è piaciuto tanto, però modificando e cambiando sia i destinatari, perché questo libro è rivolto ai genitori adottivi, diciamo, a chi genitore lo deve ancora diventare o chi lo diventerà, lo è diventato da poco, o a chi genitore adottivo lo è da parecchio tempo, presentando l'adozione come un long life process, cioè come un processo che dura tutta la vita e che quindi come tale deve essere colto nella sua continuità, ma allo stesso tempo appunto colto e valorizzato nelle specificità che caratterizzano ogni fase del ciclo di vita della famiglia e nello specifico della famiglia adottiva. Quindi insomma, noi anche oggi stiamo un po' facendo un viaggio all'interno, come dire, un po' di questo mondo e grazie al libro. Sì, io magari vi racconto un po' come è nato il titolo di questo libro e quindi anche la copertina, perché quando abbiamo deciso di scrivere un libro abbiamo scelto di parlare dell'esperienza dell'essere genitori adottivi e abbiamo scelto di raccontarla lungo tutto un percorso. Abbiamo pensato a vari titoli, i primi abbastanza noiosi, insomma volevamo raccontare la vita dei genitori adottivi, quindi ci veniva in mente un titolo, la vita dei genitori adottivi, poi ovviamente i titoli devono contenere anche un po' di... devono suscitare un po' di curiosità, e allora ci abbiamo lavorato un po' su, e nel frattempo, mentre stavamo scrivendo il libro, ci è venuto abbastanza spontaneo poi fare questa considerazione, no? Del fatto che quello che noi stavamo raccontando all'interno del libro è proprio un'esperienza che non finisce mai, perché nel suo dipanarsi nell'arco di tutta la vita si modifica, si trasforma, ci sono dei passaggi indietro, ci sono dei salti avanti. In realtà, un po' perché da genitori, un po' per la nostra esperienza anche personale e professionale, siamo, soprattutto io, arrivate in una fase della vita con figli che cominciano a crescere ma che non ti alleggeriscono dell'impegno o del peso della responsabilità, e quindi ad un certo punto ti dici proprio: ma allora non finisce mai l'impegno, la fatica, l'esserci sempre per i figli, il riuscire a accompagnarli lungo la loro strada, sostenerli nelle scelte, ma fare anche un passo indietro, tirarsi da parte, quindi seguirli dalla posizione che ti sembra essere quella migliore di volta in volta, ma che è sempre in cambiamento e che è quasi sempre poi quella sbagliata, quella che scegli tu, perché io ho figli adolescenti, quindi in questa fase qui viene fuori questa parte, no? Un po' della difficoltà di trovare dove collocarsi, però anche del bello che viene fuori tutte le volte e di quanto l'adozione continui poi a farti sorprendere, attendere e sorprendere, accogliere tutte le volte, ribadire la tua disponibilità ad accogliere l'altro, gli altri, la loro vita, i loro pensieri, le loro domande, i loro silenzi, mentre crescono. E questo davvero è un cambiamento quasi quotidiano, e quindi abbiamo pensato che utilizzare questo titolo, che non finisce mai, tenesse dentro, no? L'impegno dell'essere genitori, ma anche le sorprese che di volta in volta i figli portano. Noi parliamo dell'esperienza dell'essere genitori adottivi e a questo abbiamo fatto riferimento nell'arco di tutto, dei capitoli che raccontano il libro, delle storie che abbiamo raccontato, dei contributi che abbiamo inserito all'interno del libro. Ma poi, come diciamo un po' anche alla fine, come ci possiamo dire, l'esperienza dell'essere genitori è un'esperienza che comunque è molto accomunata da tante cose, e quindi poi raccontiamo un po' anche la genitorialità in quanto tale. La copertina che abbiamo utilizzato è una giostra, la faccio vedere. La vedete lì, scusate. E anche sulla scelta della copertina c'è stato un po' di di lavoro, diciamo così, e la proposta è arrivata dalla casa editrice, perché le autrici scrivono il testo, la casa editrice si occupa di impaginare, scegliere la copertina, ovviamente poi si concorda, c'è una fase di contrattazione. Loro ci hanno proposto la giostra e noi, dopo un inizio un po' titubante, in realtà abbiamo apprezzato tantissimo questa immagine, perché crediamo che racconti bene quella che è l'esperienza dell'essere genitori adottivi, quello di ritrovarsi quasi d'improvviso su una giostra che, dopo aver fatto magari una lunga coda per avere il biglietto, si fa una lunga coda, ma a un certo punto si sale sulla giostra e questa giostra comincia a girare ad un ritmo vertiginoso che non ti aspettavi. Sei insieme ad altra gente, come sulla giostra, altri che stanno facendo questa esperienza, qualcuno lo conosce, qualcuno non lo conosce, girano insieme a te, qualcuno lo incroci, sono sguardi che incroci, esperienze che a volte riesci anche a raccontarti, a vivere insieme, ma non sempre. Sulla giostra, su quel tipo di giostra, come nell'esperienza dell'adozione, si prendono dei grandi calci, ma si danno anche dei grandi calci. Ci si stringe insieme, se si riesce a fare un pezzo della giostra insieme, attaccandosi alle catene, tenendosi per mano, calciandosi, ma in realtà spingendosi in alto, allora sì che si ha l'opportunità di prendere il codino, altrimenti si viaggia un po' a bassi livelli, no? E invece nell'adozione questa cosa viene fuori bene, no? L'importanza del trovare qualcuno con cui viaggiare, con cui girare questa giostra che non finisce mai, e a volte sei in alto, a volte sei in basso, e non hai tanto il controllo di quello che è il movimento della tua vita, devi un po' lasciarlo andare, lasciarlo scorrere, cercare di prendere il bello e il positivo che trovi e di affrontare anche i momenti di preoccupazione, di paura, di caduta, perché nell'adozione questo ciclo, chi la vive lo sa, chi lavora in quest'ambito lo sa, è abbastanza continuo. E quindi diciamo che abbiamo scoperto che questa immagine della giostra era assolutamente perfetta per il nostro libro, e vediamo effettivamente che richiama poi anche questa idea nei lettori, quindi crediamo di aver fatto una scelta discreta, insomma. Lembo è inequivocabilmente una monetina in un burrone e potrebbe intitolarsi "Domandare è lecito, sì, ma chi risponde?". Un dato di fatto è che non si rimane madri di un bambino tutta la vita, nemmeno se il bambino è arrivato già nato, sì, insomma, adottato. Se tutto va come deve andare, il bambino cresce, diventa un adolescente, e così per forza di cose anche tu diventi madre di un adolescente. Quando sono diventata madre di Emanuele adolescente, tra le altre cose, ho dovuto imparare a percepire le sue domande silenziose, a trattenere le risposte, ad aspettare. In poche parole, ho dovuto fare un corso accelerato di tempismo che tradurrei nella capacità di esserci non un minuto prima e non un minuto dopo, dove ovviamente il prima e dopo sono esclusiva discrezione dell'interessato. Un corso di miracoli, detto in poche parole. E se di miracoli la vita è piena, l'adolescenza ne conta un sostanzioso numero. Una sera d'estate, il gruppo dei ragazzi della spiaggia organizza una grigliata, una di quelle vietate ai maggiori di 18 anni e vietatissime ai genitori di qualsiasi età. Mangiano tutti da bestie dopo una spesa fatta da cani, roba scadente, soprattutto quella da bere. Peccato che quando Emanuele si accorge che non è un superalcolico a renderlo adulto, è troppo tardi. Ha perso i sensi. Peccato che quando capisce che non è la quantità a farlo grande, ma il saperla dosare, il male è già una coperta che lo copre e lo scopre come onde intermittenti. Da quel momento fanno tutto il cielo e il mare. Il cielo gli manda uno di quegli adulti a cui era stata vietata la festa, uno capitato all'improvviso ma che lo toglie dall'acqua. Il mare, da parte sua, si ferma al punto giusto prima di inghiottirlo completamente. D'altra parte non poteva che andare così. Si erano sempre parlati Emanuele e il mare, fin da quando lui bambino nemmeno sapeva parlare. E allora avevano fatto una partita a calcio, una conversazione a tutti gli effetti. Ogni volta che Emanuele lanciava la palla, faceva una domanda e il mare, restituendola, gli rispondeva. Dovevano essersi dette cose importanti, perché quella chiacchierata al mare se l'era ricordata e lo aveva salvato. Il ricordo della chiacchierata col mare è un anello sotto la sabbia. Il ricordo di quella sera d'estate è una monetina in un burrone, ma l'abbiamo vista e abbiamo capito qualcosa in più. Oggi sappiamo che l'abbandono è un buco nero, che si può patinare ma non chiudere, che si può colorare ma non ignorare, e che l'adolescenza potrebbe farti sprofondare in quel buco, e quello che puoi fare è tirare domande come calci a un pallone, rabbioso, silenziose, fa niente come le fai, basta non smettere mai di farle, qualcuno le raccoglierà. In quel buco convivono senso di onnipotenza e sensazione di inadeguatezza, voglia di essere visti da tutti e desiderio di nascondersi da tutto, smania di essere unici e bisogno di sentirsi uguali agli altri, e gli altri ovviamente sono a esclusiva discrezione dell'interessato. Un dato di fatto è che non si rimane genitori di un bambino tutta la vita. Se tutto va come deve andare, prima o poi si diventa genitori di un adolescente. Ci si passa, ci si deve passare. Quando siamo diventati genitori di Emanuele adolescente, abbiamo dovuto imparare a non tendere la mano un minuto prima che lui la chiedesse, né un minuto dopo che lui l'aveva chiesta. Un corso accelerato di miracoli, o piuttosto la disponibilità a ricordarci del nostro polso. Forse tutte e due le cose, ma soprattutto la volontà di non dimenticare come ci siamo finiti noi o abbiamo rischiato di finirci noi in quel polso, e più ancora di come ne siamo venuti fuori. È molto brava, ci ha messo molto la sua emozione. E dopo questa parte ci interessa un po' capire dalle autrici come appunto sia un po' questa matassa, come siete riusciti un po' a così aprirla e capirla, e quindi come si svolge questo libro. Sì, allora questo libro è, diciamo che anche qui, volendo usare una metafora, è una cosa molto psicologica, ecco, quindi del mio, volendo utilizzare una metafora, potremmo paragonarlo, cioè noi pensiamo sempre a una melodia, nel senso che come le singole, no, le note della melodia, le note musicali compongono appunto nel loro insieme una melodia, così questo libro per me, per Sonia, è composto da tanti contributi differenti. Ci sono storie vere, interviste, riflessioni, scambi di mail, film, poesie, contributi da libri, José Saramago era appunto il libro che vi citavo prima, e che vogliono dare quindi contributi diversi, che vogliono dare spunti differenti al lettore, da, come dire, anche angolature differenti. E così come la melodia non può esistere senza le singole note, così questo libro, dal nostro punto di vista, come dire, va oltre il valore dei singoli contributi, ma è imprescindibilmente legato alla ricchezza che ciascun contributo porta all'interno del libro. Anche qui, utilizzando una frase cara al nostro ambito psicologico, è come dire che il tutto è più della somma delle singole parti. Ogni volta durante la presentazione ci piace ringraziare e ricordare tutte le persone che hanno voluto un po' regalarci, veramente regalarci, donarci le loro storie, le loro esperienze di vita, che hanno permesso a me e Sonia di ampliare e di arricchire il nostro sguardo sull'adozione. E diciamo, facendo tesoro di questa disponibilità che appunto tante persone, tanti genitori ci hanno dato, abbiamo pensato di raccontarvi e di andare un po' più nel merito di alcune tematiche che troverete all'interno del libro, partendo un po' da noi. Quindi, come dire, ci sembrava di così seguire un po' la linea delle persone che ci hanno raccontato le loro storie di vita, partendo un po' dalle nostre storie, per poi appunto toccare alcune tematiche del libro. C'è un capitolo c'è un capitolo nel libro che si intitola Siamo tutti parte di una storia. Quando appunto, insomma, con Sonia abbiamo pensato a quel capitolo e insomma come trattarlo, eccetera. Ovviamente sia lei sia io abbiamo pensato alle nostre storie, al nostro essere, per quanto mi riguarda, mamma di un bambino di 5 anni che si chiama Pietro, e al mio essere figlia tuttora. E mi è venuto in mente un episodio che è accaduto qualche mese fa, nel senso che appunto mio figlio era stato a casa per parecchi giorni dalla scuola materna perché non era stato bene. Rientrare a scuola è stato molto faticoso, nel senso che lui non voleva rimanere a casa, quindi si attaccava, aveva nostalgia, eccetera eccetera, al che, ripensando alla mia storia di figlia, dato che poi momenti difficili li viviamo tutti, da bambini, da adulti, come dire, ogni giorno è diverso da un altro, ho ripensato a quello che mia mamma aveva fatto con me. Io ero alle elementari e mia mamma mi aveva dato un piccolo bigliettino con una frase che aveva scritto, che io tenevo nell'astuccio. Magari non lo guardavo, ma già il sapere che c'era nell'astuccio quel bigliettino della mia mamma mi confortava. E così con mio figlio ho pensato di fare una cosa simile, non sapendo ancora leggere, gli ho dato una piccola fotografia. Ma la cosa che mi ha molto colpito, e che anche qui è partita dalla mia mamma, è stato che un giorno mia mamma è arrivata con un bigliettino, che è questo qua, che poi ho portato. Questo bigliettino è un oggetto che a mia mamma, per mia mamma è molto caro, ovviamente, che ha tenuto insieme, immagino, a tante altre cose di quando ero piccola, e che mi ha dato dicendo: guarda, prova a leggerlo. Evidentemente lei qualcosa si ricordava che cosa c'era scritto in questo bigliettino, e io l'ho riletto. E tra le cose che scrivo in questo bigliettino di auguri per la festa della mamma, credo fosse in seconda o terza elementare, dico: mamma, quando tu non ci sei mi manchi molto, e quando so che ti vedo il mio cuore si riempie di gioia. Ora, mi sono detta, perché non provare a utilizzare questo bigliettino con mio figlio, e devo dire che è stata una delle chiavi di volta, nel senso che è stato molto potente l'effetto, perché è come se in quel momento, come dire, mio figlio ha sentito che la mancanza che sentiva lui era la stessa che avevo sentito io, cioè che quella mancanza lì è una roba innanzitutto che tutti possiamo sentire, quindi che è normale, ma che poi potevamo anche condividerla, dircela, perché l'avevamo vissuta tutti e due. Ecco, questo è stato, come dire, ripensando a questo episodio mi sono detta: caspita, però è certo che noi siamo la storia che abbiamo vissuto, no? Cioè che noi, come dire, abbiamo gli strumenti che ci sono stati dati dai nostri genitori, da chi abbiamo alle spalle, e quelli che ci hanno fatto bene noi proviamo a rimetterli in pratica da genitori con i nostri figli. E questo ovviamente per qualunque genitore, nel caso di un genitore adottivo, il ruolo del genitore adottivo ha un significato molto molto importante, come dire, e fondante, no? Perché sappiamo che il bambino che entra in famiglia è un bambino che ha alle spalle un vissuto di grande trascuratezza, di abbandono, una confusione rispetto alle figure, al ruolo degli adulti di riferimento, che ovviamente non sono stati amorevoli, sicuri, protettivi nei suoi confronti. Quindi quanto può essere trasformativo il ruolo del genitore adottivo, no? Come modello di riferimento, come dire, io sono un genitore capace di fare il genitore, che può darti delle cose buone, e questo quanto può essere potente per un bambino che nella sua testa, per l'esperienza che ha avuto alle spalle, ha invece un'aspettativa completamente diversa. Io come mamma ovviamente cerco di mettere in pratica gli insegnamenti che hanno fatto bene a me, non sono una mamma perfetta, ma sono una mamma come tutti noi genitori, che cerchiamo di, come dire, mettere in pratica quello di cui siamo capaci al meglio. Per mio figlio spero che, tornando all'episodio, in questo caso abbia in mente che io ci posso essere. Anche questo è un concetto molto nostro psicologico, che forse per un bambino 5 anni è un po' difficile, ma come dire, che uno può essere presente anche nell'assenza, perché questo è, no, la ricchezza, come dire, diventando adulti è chiaro che noi questa cosa la facciamo nostra, no? Sappiamo che si può essere vicini anche nell'essere lontani. Per un bambino è più difficile ovviamente, però come dire, l'idea è che per un genitore possa essere la base sicura per il proprio figlio, no? Cioè che il figlio possa andare a fare i propri passi sapendo che in qualunque momento il genitore c'è, il genitore rimane, può fare affidamento a lui, una specie di porto sicuro nei momenti difficili, perché poi le storie spesso sono storie difficili, giusto Sonia? Esatto, nell'adozione tante sono le storie, i momenti difficili da affrontare. E per parlare di questo tema, che nel libro abbiamo raccontato attraverso la storia di Giovanna, che ci racconta una storia molto complicata, un'esperienza di adozione veramente di grande difficoltà, Io vi ho portato questa cornicetta che mi hanno regalato, è stata fatta dalla zia di mio marito che dipinge su ceramica, e me l'hanno regalata quando sono diventata mamma per la prima volta della nostra prima figlia, che è stata adottata all'età di 20 giorni. Una bambina piccola, bellissima, meravigliosa, tutte le cose più belle che potete pensare, pensatele di mia figlia neonata, perché io le ho pensate così nel momento in cui è arrivata, ed è stato per noi un dono immenso, incredibile. Noi ci avvicinavamo alla sua cura e la guardavamo increduli di aver potuto ricevere un dono così grande, di essere diventati responsabili, custodi della vita di questa bambina meravigliosa. E in questa cornice abbiamo messo la foto del nostro primo incontro, ed è rimasta sulla mensola del salotto per tanto tempo. E un giorno, non ricordo neanche come, questa cornice è caduta e si è rotta. Ora voi non vedete, ma si è rotta in tanti pezzi. E al momento eravamo molto dispiaciuti, perché la foto era per terra insieme a tutti i pezzi di ceramica e sembrava impossibile ricomporre questa cornice. E invece mio marito si è messo lì, abbiamo raccolto tutti i pezzi, anche quelli minuscoli, qualcuno non l'abbiamo trovato, infatti qui ci sono dei pezzi mancanti, però siamo riusciti a ricomporla e a poterla mettere nuovamente sulla nostra mensola con all'interno la foto. E questo mi dà l'occasione per riconoscere nella mia storia, ma penso un po' nelle storie di tutti, che quando si sceglie di diventare genitori ci si aspetta la felicità, ci si aspetta la bellezza, si desidera, si sogna un'esperienza meravigliosa. E poi questa esperienza, a volte prima, a volte dopo, comincia a manifestare delle crepe, ad avere delle crepe, a volte si rompe in un unico momento, oppure a volte cominciano a incrinarsi le relazioni, i rapporti, o ci sono degli ostacoli grossi. Quello che però, vabbè, così banalmente con questa cornicetta noi abbiamo imparato, in realtà l'abbiamo imparato un po' vivendo, lo stiamo imparando anche ascoltando le storie degli altri, cercando di capire come affrontare le cose che ci succedono nella vita. Le crepe ci sono sempre, ci sono in ogni storia, ma non devono essere quelli che spaventano. Noi abbiamo intitolato il capitolo del libro "C'è una crepa in ogni cosa", utilizzando la frase di Cohen, ed è da lì che entra la luce. E quello che abbiamo voluto raccontare è stato proprio quello delle esperienze che possono avere dei momenti difficili, anche drammatici, ma l'essere genitori significa continuare a cercare di tenere insieme i pezzi, di ricostruire le cose quando si rompono, di saper apprezzare anche le crepe, di guardare con gli stessi occhi innamorati e appassionati dei propri figli, loro che crescono e che diventano diversi da come noi ce li saremmo aspettati, forse anche da come avremmo voluto, eppure continuare a guardarli con quella stessa amore, con quella stessa intensità. E non è scontato e non è facile, e poterlo vedere fare da chi ha affrontato delle difficoltà davvero grandi e scoprire la tenacia di chi ha saputo continuare a lavorare per costruire e tenere stretto questo legame che a volte ha rischiato di saltare completamente, per noi è stato un grande insegnamento, e crediamo che sia importante raccontarlo, non per dovere di cronaca, non perché sappiamo che nell'adozione ci sono anche le difficoltà, ma proprio perché ci possano aiutare a capire come affrontare le difficoltà, come accettarle, come viverci all'interno, sapendo che poi possono passare, che possiamo fare qualcosa perché le difficoltà si riescano a superare, no? È un po' anche di nuovo il tema del "che non finisce mai", perché abbiamo voluto raccontare storie diverse di momenti diversi della vita, perché quando si è all'interno di un momento, soprattutto se il momento è intenso, intensamente bello o intensamente drammatico, è difficile riuscire a vederlo all'interno di un percorso, riuscire a vederlo come il frutto di quello che è stato, ma anche una parte di una trasformazione che deve ancora avvenire, di cambiamenti che possono esserci. Quando si è dentro, nel proprio presente, non è tanto facile alzare lo sguardo e vederlo da distanza, e invece con questa modalità noi abbiamo voluto proprio offrire questa occasione, poi ci direte voi se ci siamo riusciti, ma poter dare a chi si sta preparando a diventare genitore adottivo o a diventare genitore adottivo di adolescenti o a diventare nonno dei propri figli adottivi, l'esperienza di qualcuno che l'ha già affrontato, e a chi si trova magari più avanti in un percorso poter ripercorrere la propria vita anche alla luce di esperienze o riflessioni fatti da altri, perché poi il ruolo dei genitori, dicevamo prima, è in continuo cambiamento, è essere vicini e allontanarsi e lasciare che i figli crescano e facciano la loro strada, tutte le volte cercando quella che è la posizione giusta, allontanandosi forse sempre di più, magari fisicamente, ma con una presenza che deve essere sempre molto costante, insomma. Senti, perché spesso le scelte dei genitori, dei figli per i genitori, non sono sempre così comprensibili o accettabili, no? Quindi a volte... Raramente. Sì, mi viene in mente quando ho scelto di fare psicologia, questo è il primo libro che ho letto, era un libro divulgativo in cui cercavo di capire, rispetto a quell'idea che avevo in testa di che cosa voleva dire fare la psicologa, che cosa poi voleva dire fare la psicologa nella realtà, quindi al di là della mia idea di appunto adolescente, post-adolescente, diciamo così. E ricordo che quando ai tempi ero stata assolutamente libera di scegliere, eccetera, molti anni dopo, parecchi anni dopo, quando ormai psicologa l'ero diventata da tempo, ricordo che mio papà mi ha detto che ai tempi, quando gli avevo detto che la mia idea era di fare la psicologa, lui mi aveva un po' pensato che questa cosa lo preoccupava un po', cioè che magari poteva essere una scelta, diciamo, nel medio periodo un po' complicata a livello lavorativo, forse anche ovviamente venendo dalla sua esperienza di vita, dalla sua idea di che cosa era il lavoro, diciamo, sicuro, tra virgolette, eccetera, eccetera. E devo dire che in quel momento ho apprezzato ancora di più il fatto che parecchi anni prima lui questi pensieri li avesse tenuti per sé e mi avesse lasciato la libertà e l'autonomia di scegliere per me stessa, un po' ritrovare la mia strada, no? E ecco, questa libertà di scegliere, di trovare il proprio posto nel mondo, di seguire le proprie inclinazioni, le proprie potenzialità, le proprie risorse, accompagnati e sostenuti dai genitori, è proprio un tema cruciale di uno dei capitoli del libro, dove sono raccontate diverse storie, tra cui quelle di due coppie di genitori adottivi, la prima coppia di Marta e Maurizio. Marta e Maurizio sono due genitori che hanno adottato un ragazzo che si chiama Emmanuel, che è un bravissimo e giovane talentuoso regista e attore. Per loro la scelta del proprio figlio di diventare attore è stata una scelta, come dire, complessa da accettare, da condividere e da accompagnare. Ora sono presenti a qualunque suo monologo, spettacolo, e sono i suoi principali sostenitori, però loro raccontano appunto un po' le fatiche della necessità di aprirsi a un mondo che era molto diverso rispetto a quello che loro avevano in mente, ma che gli ha permesso di cogliere tutta una serie di risorse, di strumenti, di ricchezze, di valori del proprio figlio, perché poi Emanuele ha messo in pratica con grande impegno e con grande costanza le doti che lui effettivamente ha. È un attore molto molto bravo. Trovare il proprio posto nel mondo, come dire, ha un non solo in senso metaforico ma anche reale. Adesso mi viene in mente la storia di altri due genitori adottivi, Marilene e Maurizio. Loro hanno adottato due ragazzi di origine filippina, non sono due fratelli ma sono diventati fratelli in seguito all'adozione. Li hanno adottati che avevano pochi mesi di vita, loro abitano nell'hinterland milanese. Crescendo i loro figli hanno preso due strade completamente diverse. Valentina, una bravissima calligrafa, illustratrice, vive a Milano, è sposata con la propria bambina. Il fratello invece ha deciso di intraprendere una via molto diversa, nel senso che per lui il proprio posto nel mondo ha significato ritornare nel proprio paese di origine. Lui qui giocava a calcio, lui fa il calciatore professionista. Ha deciso poco dopo, sono intorno ai 19 anni, di ritornare nelle Filippine e di tornare nello specifico i primi anni proprio nella comunità, nell'istituto che lo aveva accolto nei primi mesi di vita, e di, come dire, costruire la propria vita lì. Lui dice gioca calcio in una squadra di Manila e nella nazionale delle Filippine. Questi genitori ci raccontano come sia stato difficile accettare questa scelta del figlio, ma allo stesso tempo una frase che ci ha molto colpito durante l'intervista, loro dicono: ora sentiamo Simone più vicino rispetto a quando condividevamo le stesse stanze e la stessa casa, lo sentiamo più vicino a noi ora che è distante rispetto a prima. Marilyn e Maurizio ci raccontano proprio di come sia stato difficile e faticoso, ma anche stravolgente per certi versi, ma anche così arricchente il fatto di poter vedere il proprio figlio, come dire, sereno in un contesto di vita che per lui ovviamente ha significato e significa tanto. E il fatto di essere vicini ai propri figli, per ragazzi appunto che hanno una storia, come dicevamo prima, di grandi fatiche, di grandi dolori alle spalle, è sicuramente, come dire, assume un peso molto importante. Sono ragazzi spesso che hanno, come dire, delle fragilità legate a spesso valori di autostima bassi, legati a delle insicurezze, legati alla fatica di potersi approcciare al mondo credendo nelle grandi risorse che in realtà hanno, no? E quindi in questo senso i genitori adottivi rappresentano proprio il perno su cui loro possono fare affidamento e che può permettere loro di sentirsi più sicuri all'interno di potenzialità e risorse che questi ragazzi appunto possiedono. Un'altra cosa che vi abbiamo portato è un video che abbiamo fatto mentre finivamo di scrivere questo libro, in realtà quasi in finale, quando ci stavamo preparando a incontrare i nostri lettori, futuri lettori, così come stiamo facendo questa sera. E abbiamo, noi durante la scrittura di questo libro abbiamo riflettuto sull'essere mamma e l'essere papà e sul significato che mamma e papà hanno nelle varie fasi della vita di persone diverse. Allora, proseguendo su queste riflessioni, abbiamo pensato di intervistare persone diverse, di chiedere a persone diverse che cos'è per loro la mamma e che cos'è per loro il papà. Ne è venuto fuori un video che secondo noi è molto carino e che comunica qualcosa anche al di là di quello che abbiamo raccontato nel libro e che possiamo dirvi noi a voce, per cui magari se avete voglia, è breve, dura 6 minuti, lo possiamo guardare insieme. Penso a qualcuno che ti costruisce una strada sicura. Se dici mamma, penso in salutezza, perché la tua mamma risolve sempre i problemi. Penso a mia moglie e soprattutto alla felicità, al suo sorriso quando è diventata mamma per la prima volta e quando ha visto la sua bambina che le veniva incontro. Prendersi cura e far crescere, accompagnare. Lei è la tua vita e mi aiuta quando cado e mi rialza. Penso alla mia mamma, al tempo che passiamo insieme, che abbiamo passato insieme. Penso a una grande gioia sicuramente. È una mamma, è una persona che aiuta i propri figli e gli vuole bene. La più importante della vita. Mamma è esserci sempre, imparare che esiste un amore più grande di qualunque altro amore vissuto o immaginato e che quell'amore vale qualsiasi cambiamento. Sapere ascoltare i bambini, cercare di aiutarli quando hanno bisogno. La mamma per me è un grande amore, tante felicità, un amore, un grande amore. l'unica persona che sta con me, per me è la mia vita. Ah, indispensabile a qualsiasi età e per qualsiasi persona, porta le coperte quando freddo, che mi accompagna dove voglio, che mi scrive quando sbaglio e che mi aiuta in generale ad affrontare la vita che poi dovrò affrontare da sola. La mamma non è solo quella che ti partorisce, ma quella che ti sta accanto per qualsiasi passo che tu farai nella tua vita, sia in quella grigia che in quella positiva. La mamma c'è sempre, anche quando ci andiamo incontro, anche quando pensiamo che lei non ci fosse, o magari quando lei ha tanti pensieri in mente e non riesce a ascoltarci. Ma la mamma c'è sempre e ci sarà sempre. Per tutta la nostra vita la mamma ci sarà sempre, perché è la moto che farà andare avanti tutta la famiglia. Senza la mamma, non so, il mondo sarebbe nullo, nulla. Per me la mamma è tutto. Che ti protegge nei momenti difficili. Papà è quello che io mi sono reso conto cosa fosse quando lo sono diventato. Divertimento, giochi, mondo da scoprire, nuove avventure. Mi pensa sempre quando sono lontana. Una gioia infinita. Una persona di riferimento. Anche lui tanti sacrifici, che partiva anche lui al mattino presto, tornava la sera tardi e lo vedevo solo sabato e la domenica, e allora erano coccole tutta tardi. La parola papà mi toglie in mente tanta tenerezza, il gioco, il divertimento, la famiglia. Mi viene in mente mio padre, perché l'ho pronunciato tante volte questo termine, però qualche volta dico papà anche mio marito, perché è papà dei suoi figli. Mi è mancato molto presto e mi manca ancora adesso, dopo 75 anni, è morto nel 42, non puoi più dire. Ha qualcosa invece che è sempre nuovo, qualcosa che ti dà sempre un input in più, che ti dà sempre un punto di ispirazione nuovo che ti permette di dire non c'è solo questo, c'è dell'altro e lo devi scoprire. Aggiungo solo una cosa ancora al filmato, nel senso che è sempre emozionante rivederlo, perché qui voi ovviamente vedete dei piccoli stralci. Noi ci siamo resi conto quanto una domanda così semplice, che cos'è per te la mamma, che cos'è per te il papà, aprisse un mondo. È stata una domanda potentissima che con le persone che voi vedete nel filmato in realtà ha, come dire, ha aperto ricordi, spaccati di vita, racconti che andavano ben oltre quello che ovviamente qua abbiamo dovuto sintetizzare, no? E quindi è stata veramente un'emozione grande ogni volta a rivederlo, insomma ci ricorda quei momenti e insomma è stato veramente intenso. Ecco, volevo chiedere anche a Berta in questo momento che cosa ci sta rappresentando. Ho voluto rappresentare la faccia, all'inizio era più un bebè, dopo ho iniziato a crescere un po', l'adolescenza, la crescita, piante, un po' le fiori e anche un po' la luce, no? Che può rappresentare un bambino in adozione. Io non sono mamma e non sono pure la mamma adottiva, però posso capire un po' se può rappresentare un figlio. Grazie. Ecco, nel libro c'è anche il concetto del tempo, no? Che è molto interessante perché avete un po' spaziato dall'inizio dell'adozione a quando si diventa nonni dei propri figli adottivi, e quindi anche questo amore, no? che arriva e che è anche molto potente. Quindi è bello proprio perché avete un po' trattato tutti gli aspetti un po' dell'adozione nel tempo. Una cosa che mi ha colpito è stato questo cerchio, no? Che a volte si chiude, come voi dicevate, quando c'è una situazione molto difficile che poi improvvisamente diventa, no? Come una qualcosa che ha servito per crescere, no? E questo è stato un aspetto anche molto bello che c'è nel libro. E questo concetto del tempo volevo un po' approfondirlo con voi. Allora, è vero che c'è questa cosa del cerchio che si chiude, ma c'è anche quello che poi si riapre. Esatto. È un continuo chiudersi e riaprirsi, non c'è mai un cerchio che si chiude una volta per tutte. Cioè, nell'essere genitori è un po' alla volta, lo si capisce, è un camminare insieme ai figli, no? Nell'ultimo capitolo Rosangela Perpacco ci racconta la sua esperienza dell'essere genitore adottivo di un figlio che prima è neonato, poi prima è piccolo, poi è adolescente, poi è adulto, ed è quello che un po' alla volta da genitori impari, no? E scopri, è che poi ad un certo punto tu cammini insieme a tuo figlio, che non solo lo accompagni, ma che sei un essere umano insieme a un altro essere umano, insieme ad altri esseri umani, tutti che fanno un proprio percorso, che si intreccia, che si incontra con i percorsi di altre persone, ma che poi tutti facciamo, non finisce mai neanche il proprio personale percorso dell'essere genitori, ma come persona, no? Sei lungo un cammino e sei in questo cammino insieme a tante persone. I figli ti arricchiscono tantissimo questo cammino, te lo abbelliscono, te lo complessificano, ma te lo rendono fantastico, affascinante. Credo che sarebbe la mia personale esperienza di vita molto più povera se non avessi avuto i figli, e quindi mi è caro questo concetto, no? Poi del riscoprire tutte le volte quali doni ti vengono fatti, anche quando sembrano più delle fatiche o degli ostacoli. Il tema dei nonni è un tema che a me piace molto ricordare, non sono ancora nonna, ma è un pensiero che faccio spesso, e nel nostro libro abbiamo voluto raccontare l'esperienza dell'essere genitori, del diventare nonni dei propri figli adottivi, che anche qui è un cerchio che si riapre un'altra volta, perché diventi nonno di un bambino che non ha con te nessun tipo di appartenenza genetica, così come è stato quando sei diventato genitore. E non è una scelta che fai una volta per tutte e poi è fatta, punto, ma è una scelta che devi continuamente ribadire, devi continuamente riconoscere che nell'altra persona non c'è nessuna appartenenza biologica, ma c'è un'appartenenza che si costruisce e si ricostruisce. Ci sono degli allontanamenti, ci sono nuovamente degli avvicinamenti, no? E quindi ti ritrovi di nuovo di fronte a rivivere quell'esperienza in maniera diversa. Un nipote a cui non puoi trovare la somiglianza con i nonni, ma che magari per la prima volta riesce ad avere una somiglianza con tuo figlio, che è sempre stato invece diverso da tutti somaticamente. E quindi lui vive un'esperienza intensa di cui tu genitore non fai quasi parte, perché per la prima volta lui trova una somiglianza in qualcuno che ha un'appartenenza anche biologica, e tu genitore sei un po' spettatore, cosa che invece quando quei nonni biologici non succede, perché anzi lì il gioco è a trovare le somiglianze con i nonni. Quindi è veramente tutto un'apertura, una chiusura di cerchi, una giostra che gira e che non finisce mai. Se posso aggiungere, connesso al tema di un percorso che evolve nel tempo, è anche un percorso di senso, come dire, ciascuno di noi può proiettarsi nel futuro e trovare il proprio posto nel mondo, utilizzando un po' la frase che abbiamo usato anche prima, nel momento in cui ha dato un senso a ciò che ha alle spalle, no? Cioè questo è un percorso che ciascuno di noi fa. È chiaro che questa cosa ha maggior ragione, è importante e significativa quando quel senso lì e quel, come dire, implica anche il fare i conti con un pezzo di storia che sta prima del momento dell'adozione, prima dell'incontro tra il figlio e i genitori, no? Steve Jobs, quando quando abbiamo ascoltato, perché è citato nell'altro libro, il discorso che Steve Jobs fa ai laureandi di Stanford, dove tratta di tutta una serie di temi, lui dice appunto ai laureandi: non è possibile guardare avanti se non si sono prima messi in ordine i puntini che abbiamo alle spalle. Cioè, come dire, proiettarci nel futuro è possibile nel momento in cui la nostra storia, i puntini che abbiamo alle spalle, siamo riusciti a metterli in ordine, siamo riusciti a dare loro un senso. Il trampolino ci può essere nel momento in cui quello che abbiamo alle spalle non diventa zavorra, ma diventa, come dire, un valore aggiunto, una ricchezza, perché ne abbiamo compreso il senso. Ecco, questo, come dire, è un compito un po' di tutti che possiamo fare nel tempo, perché non si può fare in media stress. Questa cosa si può fare a posteriori, no? Cioè ripensare a posteriori a quello che abbiamo vissuto al passato, e è fondamentale nel rapporto tra i genitori adottivi e i propri figli, no? I genitori adottivi in questo senso fungono da supporto, da facilitatori nell'aiutare i propri figli a fare i conti con una storia il cui senso spesso è molto difficile da trovare, a volte anche difficilmente comprensibile, non solo perché non si hanno spesso dei dati di realtà, come dire, delle pezze giustificative del perché sono accadute delle cose, ma anche perché spesso il senso è veramente ostico da comprendere per le vicende che spesso questi ragazzi, come dire, hanno dovuto vivere. Non so, ci sono domande, c'è qualche riflessione che qualcuno vuol fare nel pubblico? Chi rompe il ghiaccio? Ho apprezzato molto una cosa che ha detto Sonia, quando ha detto che da una crepa, che comunque la crepa è una cosa negativa, tra virgolette, passa la luce. Ecco, questa è una cosa che mi ha colpito tantissimo. Non avevo mai visto in una crepa la possibilità che passasse la luce. Non prendo meriti di frasi che non sono mie, che ho riportato, ma anch'io la sento proprio vera, no? È bello poter vedere poi come nelle storie delle volte sono proprio le difficoltà superate quelle che danno la forza per diventare se stessi, per riconoscere una propria capacità, predisposizione, una particolare arte. Nell'altro libro che abbiamo scritto abbiamo proprio raccontato storie di tante persone famose che sono state adottate e quindi che hanno vissuto esperienze anche molto difficili, comunque percorsi di infanzia duri e complessi, e molti di loro, davvero molti di loro, all'interno delle loro storie raccontano o si scopre che è proprio la difficoltà che poi ha fatto sì che attraverso la resilienza, attraverso la tenacia, il cercare le risorse dentro se stessi per poter superare una difficoltà, facessero emergere il talento che poi tutti conosciamo, perché davvero molte persone sono anche, molti di quelli che abbiamo raccontato sono molto famosi e hanno un talento che tutti, in tutto il mondo, viene riconosciuto, e forse anche proprio grazie a queste crepe che hanno fatto sì che da qualche parte bisognasse trovare la forza per ricostruire, ma lasciassero passare la luce proprio. Anche perché, come dire, soffermarsi solo sulle crepe in senso negativo, cioè, come dire, è qualcosa che non ci fa andare avanti, che non ci smuove, no? Io qui adesso parlo, qui sono in veste di autrice, però insomma parlo da operatrice, da psicologa, cioè questo, come dire, nel mio lavoro è la base, nel senso che io vengo da, come dire, nel mio lavoro mi trovo a confrontarmi con situazioni di famiglie adottive che vivono dei momenti molto complessi, situazioni di crisi, dove a volte bisogna fare delle manovre, come dire, anche un po' come dire, forti. Allora è chiaro che la mia visuale è una visuale di contesti in cui ci sono delle difficoltà molto molto gravi. Ma la cosa che ho imparato e che poi diventa veramente, credo, come dire, la chiave di volta, è che se ci si sofferma solo sulle fatiche, sulle difficoltà, sulle debolezze, chiamiamole così, no, non si va avanti. Cioè tutti abbiamo dei punti di forza, tutti abbiamo dei talenti, tutti abbiamo delle risorse. Cioè se io non le vedo, non è che perché la persona che ho davanti non le ha, ma sono io che non filtro con gli occhiali giusti la persona che ho davanti, perché i punti di forza ce li abbiamo tutti, e lavorando sui punti di forza è possibile riuscire a superare anche le crepe, le difficoltà, che diventano poi, come dire, dei momenti in cui si acquisisce consapevolezza di quello che non ha funzionato e si può andare oltre. Quindi in questo senso poi il lavoro con le famiglie, perché poi è un dare reciproco, no? A me ha dato tanto e mi dà proprio questa certezza per me, cioè l'idea per cui certo ci sono le fatiche, bisogna fare delle robe a volte complicate, che insomma, però se si lavora anche parallelamente sulle robe, che sui punti di forza, sulle potenzialità, sulle risorse possibili, allora sì che funziona il lavoro. No, io volevo solo avere una delucidazione su quello che era la giostra, perché la metafora dei calci mi è rimasta un po' impressa. La metafora dei calci. Perché ricordo i calci che riceviamo, no? Però non ho capito bene quelli che diamo, no? che cosa intendesse esattamente sui calci che vengono dati, qual è il significato di questa metafora. Basta, solo questo. Sì, in realtà io credo che nella vita a tutti noi capiti di subire delle ingiustizie, e qualche volta anche inconsapevolmente di fare delle ingiustizie, o comunque di fare qualche cosa che possa essere visto negativamente dagli altri. Non abbiamo fatto un pensiero particolarmente profondo su questo ricevere calci e dare calci, è un po' l'esperienza della vita, no? Insomma, di vivere esperienze negative, qualche volta per azioni che altri fanno e di cui noi subiamo le conseguenze, e qualche volta c'è qualcuno che subisce le conseguenze di quelle che sono le nostre scelte, non da ultimi i nostri figli, senza con questo voler dire che i genitori appositamente per scelta decidono di dare calci ai figli, ma qualche volta il compito educativo è fatto di tante azioni differenti, no? Quello del coccolare, dell'accogliere, e anche quello dell'invitare a crescere, dell'invitare a fare delle scelte in autonomia, dell'invitare a diventare se stessi. Quindi forse lo possiamo tradurre così, però ecco, ognuno poi ci può mettere quello che vuole. Io mi ricordo durante un'altra presentazione che una mamma ha detto: ma io in realtà mi sento sugli autoscontri, da quando sono diventata mamma io mi sento che sto cercando di difendermi da auto che mi arrivano addosso, che deviano il percorso che io sto cercando di fare. Quindi lei non si sentiva su una giostra, si sentiva che stava cercando di svicolare da una serie di scontri che invece le arrivavano addosso in continuazione e che la frastornavano. E, diciamo, ognuno poi ha le sue immagini, utilizza delle immagini differenti e ci può stare tutto. Questa è una delle immagini che noi portiamo attraverso questo libro, ovviamente non è esemplificativa di tutta l'esperienza dell'essere genitori, e ci fa anche piacere poter raccogliere poi immagini differenti, perché come è stato incontrando le persone che hanno contribuito a questo libro, per noi è sempre un'esperienza di arricchimento, quello di ascoltare i punti di vista differenti. Come diceva anche Sara all'inizio, lo riteniamo proprio una caratteristica fondamentale un po' dei nostri libri, delle storie che raccontiamo. Non c'è una storia uguale a un'altra, non c'è il modo giusto di vivere l'esperienza dell'adozione, l'accoglienza, la fatica, la felicità. Ognuno, a fronte anche di quella che è la propria esperienza di vita, l'educazione che ha avuto, le persone che ha incontrato, ciò che gli è successo nella vita, affronta in maniera del tutto personale la propria vita, no? Ed è il raccontarselo, secondo me, che è veramente interessante, perché sentire l'esperienza di un altro e come l'ha vissuta, anche se molto diversa dalla mia, mi aiuta a capire qualcosa di più, non solo di lui, ma anche di me, paradossalmente. Volevate aggiungere ancora qualcosa? No, se non ci sono domande. Bene. Allora, direi che possiamo, no, finire. Come sei tu? Sei a posto? Ha fatto una cosa meravigliosa. No, però che non finisce mai. Esatto. Sempre proseguire. Sì, che non finisce mai. La puoi chiamare così. Esatto. Bene. Ringraziamo tanto le autrici. Ci avete fatto in questa così presentazione un po' anche rivivere, no, delle cose vissute, ma anche non c'è solo il segno della fatica ma anche della speranza, no? E questo è molto importante nell'adozione, e anche questo aspetto sia gioioso che faticoso, no? Che è queste due parti importanti. Ecco, vi invito a leggerlo perché è molto, molto bello, e grazie ancora. Grazie a voi.